GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lo skipper di Maxi Jena, Miloš Radonjić, arrestato a Trieste alla vigilia della Barcolana, è accusato di traffico internazionale di droga. L'inchiesta è partita negli Stati Uniti. Sull'uomo ora pende una richiesta di estradizione. In arrivo una nuova ondata di maltempo. Il peggio dovrebbe avvenire nella notte, quando alle piogge intense sulla pedemontana si aggiungerà il rinforzo del vento di scirocco e di libeccio. Si temono nuove mareggiate sulla costa fra Grado e Lignano. E appunto siamo andati a vedere com'è la situazione a Lignano. Qui la spiaggia ha già subito la forza delle onde venerdì scorso. Come ci si prepara a fronteggiare il nuovo pericolo? La fuga dal pronto soccorso, poco personale, molto lavoro, retribuzioni inferiori alle aspettative. In più di un caso, i medici, di cui c'è penuria in tutti i settori, si licenziano e vanno verso il privato, trovando migliori condizioni di vita e di lavoro. Qual è la situazione a Trieste? Cosa si può fare? Sentiremo il primario Cominotto e il rettore dell'Università di Lenarda. I tigli di Pordenone finiscono davanti al TAR, o meglio, sul tavolo dei giudici amministrativi arriva la delibera del comune che dispone il taglio degli alberi. Il ricorso è stato firmato da Legambiente. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro. Sono queste le accuse a carico di Miloš Radonjić, lo skipper montenegrino di Maxi Jena, arrestato a Trieste alla vigilia della Barcolana, in base a un'inchiesta partita negli Stati Uniti. Ora l'uomo è in carcere a Tolmezzo, in attesa della decisione sull'estradizione. Nella Trieste vivacissima dei giorni che precedono Barcolana, a meno di 48 ore dalla partenza della regata più partecipata del mondo, l'armatore di una delle più grandi barche in gara viene arrestato a Trieste, prelevato dall'hotel con mandato di cattura internazionale emesso dal distretto est di New York. Arrestato con l'accusa di riciclaggio e traffico di droga, si parla di tonnellate e tonnellate di cocaina tra Sud America e Europa. Dagli agenti della squadra mobile di Trieste, Miloš Radonjić, 33 anni, armatore del Maxi Jena, un racer di 24 metri che all'ultimo ha visto al timone in Barcolana il fratello Marco. La barca poi è stata squalificata per l'uso del motore. Radonjić è rinchiuso nel carcere di Tolmezzo e si dichiara innocente. L'avvocato Alessandro Maria Tirelli, anche presidente delle Camere Penali Internazionali, parla di probabile omonimia con un bandito montenegrino e si oppone all'estradizione. Noi siamo con Furio Benussi, vincitore di Barcolana 2023 con la sua Arca SGR, che da stamane ha ricevuto centinaia di messaggi da amici e anche sponsor, perché il giornale che per primo ha dato la notizia, cioè il Corriere della Sera, nel titolo ha scritto: lo skipper campione arrestato alla Barcolana. È completamente fuorviante, al di là del fatto che non so se lui sia o non sia un campione, per l'amor di Dio, questo va visto nel suo palmarès, nel suo curriculum, però insomma nell'articolo, tutti gli articoli che ho ricevuto, tutti i WhatsApp che ho ricevuto riportavano Barcolana, lo skipper campione arrestato, e chi non è abbonato al Corriere legge solo l'articolo, legge solo il titolo, e quindi questo è stato estremamente fuorviante. Radonjić è stato arrestato il 7 di ottobre agli arresti nel carcere di Tolmezzo. Si professa innocente. Voi lo conoscete? Ma io l'ho sentito nominare, avevo conosciuto un Radonjić, ma credo fosse un genitore, perché era più anziano di 33 anni, quindi so che loro avevano questa barca, l'avevano da 2 anni. Non li incontravo mai sui campi di regata se non in Barcolana, e noi ne facciamo tantissime di regate, partiamo da maggio, finiamo a ottobre, quindi sono 14 eventi, quindi capitava che lo vedevamo qua. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Da mezz'ora è entrata in vigore una nuova allerta meteo, questa volta è arancione, quindi annuncia un aumento del rischio per eventi meteorologici. Sono attese piogge molto intense sui monti, specie sulle prealpi, e localmente anche su qualche zona di pianura. Sulla costa invece è atteso vento forte con mareggiate tra Lignano e Grado. La situazione peggiore sarebbe attesa per la notte, ma chiediamo a Sergio Nordio, previsore dell'Osservatorio Meteorologico Regionale, che cosa ci attende nelle prossime ore. Sulla regione arriverà un altro fronte che sta già dando degli effetti, appunto con dei rovesci sparsi. Ci attendiamo piogge d'abbondanza intense che soprattutto nella notte, nelle prime ore di domani mattina, interesseranno gran parte della regione, ma in maniera più marcata la fascia prealpina, sia delle prealpi caniche prima e poi successivamente delle prealpi giulie. insieme alle piogge intense arriverà nuovamente vento da sud-est, inizialmente scirocco, anche sostenuto sulla costa, poi in rotazione nel primo ore di domani mattina a sud-ovest, libeccio. Rimane però instabilità nella giornata di domani, perché arriva aria un po' più fresca in quota, quindi darà origine ancora nel corso della giornata di domani a dei rovesci e anche a dei temporali sparsi che saranno più probabili sulle zone orientali della regione. Da domani sera dovremo avere una fase più tranquilla, perlomeno circa per 24 ore, quindi fino poi al pomeriggio del giorno 1. Ma quindi nella notte, nella giornata di domani, dobbiamo attenderci un ingrossamento del corso dei fiumi, mareggiate? Ma diciamo che sono attese ancora delle piogge intense, bisognerà poi come sempre seguire l'evoluzione, vedere se queste piogge più intense saranno maggiormente presenti sulla zona occidentale della regione, quindi sulle prealpicaniche, oppure se ne avremo anche un po' su tutta la zona montana. Rimane sempre un margine di incertezza, bisogna comunque seguire l'evoluzione. Un'ondata di maltempo che non resterà solitaria, purtroppo. No, abbiamo un letto di correnti atlantiche con diversi fronti. Un altro debole fronte arriverà in serata del giorno 1, ma sarà appunto debole, con piogge piuttosto attenuate, e invece è in vista un fronte un po' più consistente nella sera del 2, a cavallo appunto col 3 mattina. Chiaramente sono previsioni che poi vanno via via aggiornate. Rimangono appunto queste correnti molto umide meridionali che pescano su un mar Mediterraneo molto molto caldo per il periodo, e quindi danno tanta instabilità. Quindi le temperature resteranno sopra la media per questo periodo? Per ora sì, vista appunto la massa d'aria meridionale che interessa gran parte dell'Italia, quindi correnti sciroccali portano sempre temperature più elevate della norma. Un po' più fresco probabilmente il fronte che arriverà a cavallo tra il 2 e il 3, porterà in quota aria un po' più fredda, quindi potrebbero anche arrivare delle nevicate oltre 1800-2000 metri, e poi ci sarà un lieve calo delle temperature, però non sembra entrare aria fredda in maniera decisa. Andiamo ora a Lignano, sentiamo in che condizioni è l'Arenile e che cosa si sta facendo per proteggere la costa dalla nuova ondata di maltempo annunciata. Il picco di marea è arrivato alle 10.30 del mattino, per fortuna con poco vento, ma a Lignano sono le prossime ore a preoccupare, con il soffio dello scirocco che può toccare i 100 km all'ora e la pioggia in aumento ad accrescere il rischio di mareggiate, con la conseguente erosione delle spiagge. Il maltempo negli ultimi giorni ha già colpito la città balneare, soprattutto nei tratti più esposti, la zona di Punta Faro e la foce del Tagliamento. Sulla sabbia sono ancora evidenti i detriti lasciati dalla marea, mentre è stato vietato l'accesso alla banchina del Faro Rosso, uno dei simboli di Lignano, perché parte del legno è saltato a causa delle onde e il faro stesso oscilla in maniera pericolosa. Come spiega l'assessore comunale alla protezione civile Marco Donà, potrebbe anche cadere. Lignano si prepara con un piano che durerà tutta la notte, ha aggiunto, e tutto il territorio verrà monitorato costantemente. Sono pronti dei sacchi di sabbia per proteggere i varchi nelle aree più fragili in caso di ingressioni marine. Le mareggiate dei giorni scorsi, si spiega, nonostante i danni, parecchi dei sacchi sono stati rotti, hanno permesso di individuare le aree più a rischio. Per il lungo periodo però, spiega Salvatore Sapienza del sindacato dei balneari, servono soluzioni più vicine alla natura, con dune sommerse o di superficie, per evitare ogni anno di vedere circa 80.000 metri cubi di sabbia portati via dal mare, che devono essere recuperati ogni volta. Lignano, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Questo avviene a Lignano, ma sentiamo come si predispone la struttura dei vigili del fuoco per far fronte a una situazione come quella che si annuncia, con aumento della portata dei corsi d'acqua e con il rischio di mareggiate sulla costa. Abbiamo in linea il direttore regionale dei vigili del fuoco, Agatino Carrolo. I corsi d'acqua sono costantemente monitorati dalla protezione civile regionale ed è che è in contatto H24 con le sale operative dei quattro comandi provinciali. Al momento sono stati allertati i moduli del contrasto rischio acquatico, significa che sono specialisti per portare soccorso acquatico in superficie e in profondità con i nuclei sommozzatori, e quindi sono allertati tutti i moduli di contrasto rischio acquatico nei quattro comandi provinciali della regione Friuli Venezia Giulia. Ma sono previsti allagamenti, insomma? Sì, esatto, anche per questo. Avete richiesto uomini ad altri? No, al momento no, siamo in una fase di allerta che è di grande attenzione per questa criticità del rischio idraulico della nostra regione. E mentre il cielo è attualmente coperto su tutta la regione, diamo ora un'occhiata alle temperature registrate alle 11, a Trieste 19,5 gradi, a Udine 17,5, a Pordenone e Gorizia 16,5, a Tarvise 14 gradi, a Tolmezzo 13, a Piancavallo 11 gradi, a Forni di Sopra 10,5 gradi, a Sappada 9,5 gradi, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 7,5 gradi, tornando sulla costa a Lignano 20,5 gradi, a Grado 20 gradi. E cambiamo argomento, la difficoltà di trovare medici disposti a lavorare nei pronto soccorso è sempre più marcata, la medicina d'urgenza manca di attrattività e le cause sono molteplici e non riguardano soltanto gli stipendi. Le interviste nel servizio sono di Livia Liberatore. Il lavoro nei pronto soccorso è molto impegnativo, vanno prese decisioni vitali in pochissimi frangenti, si lavora su turni e questi diventano pesantissimi se c'è carenza di organico. Un ritmo così stressante a lungo andare logora. E molte sono le medicine di urgenza che devono ricorrere ai medici gettonisti. Al pronto soccorso di Cattinara, Asugi ha messo a contratto gli specializzandi, che hanno così una grande opportunità di esperienza e studio. Ma gli studenti spesso scelgono altre specializzazioni. Franco Cominotto, direttore del pronto soccorso di Cattinara, e Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste. Lo stipendio aiuta, ma non, sicuramente va portato avanti come argomento principale, forse non il principale, ma non è l'unico. Bisogna ridare un'organizzazione al lavoro di pronto soccorso che garantisca ai giovani medici sicurezza legale, sicurezza di salute e ore lavoro accettabili, non eccessive, come spesso viene proposto per poter organizzare la turnistica del mese. Non è un problema di vocazione, è un problema sicuramente di una generazione che fa più fatica ad accettare le difficoltà di una professione, che è una professione totalizzante. Forse c'è una maggiore consapevolezza nei giovani di voler vivere la vita, come è comprensibile. La parte stipendiale è importante, ma non è l'unica. La qualità della vita, la qualità dell'organizzazione, la consapevolezza che viene riconosciuto il ruolo sono elementi fondamentali. Il rettore è assolutamente favorevole al mantenimento del numero programmato, numero chiuso. Sarebbe folle eliminarlo, perché l'unico risultato che potremmo ottenere sarebbe di abbassare il livello formativo dei nostri medici, che sono molto preparati. Per cui l'importante è eliminare soluzioni irragionevoli e irrazionali quali quello dei gettonisti e investire sulla sanità pubblica, che è l'unica vera sanità del nostro paese. Trieste, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Le giornaliste e i giornalisti della RAI hanno deciso di raccogliere l'appello di Comen Italia per il mese della prevenzione dei tumori al seno. In Italia ci sono oltre 56.000 nuovi casi di tumore al seno all'anno, ma la diagnosi precoce può fare la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Oggi indossiamo tutti il simbolo di Comen Italia, il fiocco rosa, per essere ambasciatori e ambasciatrici del messaggio della prevenzione. La prevenzione può salvare la vita. 30 aziende che raccontano una parte importante della storia del commercio, del turismo e dei servizi in provincia di Udine sono quelle che verranno premiate da Confcommercio Udine con una targa nell'ambito dell'evento sulle eccellenze storiche, in programma a partire dalle 17 nella chiesa di San Francesco. Durante la serata verrà anche proiettato un cineracconto che vedrà protagoniste queste aziende nel ruolo di testimoni delle trasformazioni e dei caratteri più profondi di un'identità nel fare impresa. A Pordenone, Legambiente ha presentato un ricorso al TAR contro la decisione del comune di tagliare degli alberi nell'ex fiera. È stato notificato il ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia contro il progetto del nuovo Polo Young in ex fiera a Pordenone, che prevede l'abbattimento di 53 tigli. Lo ha fatto sapere il locale circolo di Legambiente. Secondo i ricorrenti, l'opera non terrebbe conto di vincoli paesaggistici e architettonici, tra questi quello relativo all'ex casa del Balilla, quello sul filare di alberi in via San Quirino e quello sull'area del parco alberato, testimonianza dell'ex colonia Elioterapia. Come tutti i ricorsi al TAR punta su diversi elementi, tra cui quello più importante secondo me è la sostenibilità ambientale di questo intervento. Per Renato Marcon, presidente del circolo Fabiano Grizzo, il progetto poi non prevede l'impianto di nuove alberature che in ogni caso, dice, non riuscirebbero a compensare in termini di benefici ambientali e servizi ecosistemici la perdita delle piante sane che saranno abbattute. La replica dell'assessora all'urbanistica del comune di Pordenone, Lidia Diomede. Il progetto del verde è stato stralciato proprio per conferire a quel progetto un'importanza particolare vista la sensibilità che c'è su quel luogo. Quindi non solo ci atterremo alle prescrizioni che la soprintendenza ci ha dato di sostituzione degli alberi che verranno tolti con alberi adulti, ma il progetto del verde prevederà delle piantumazioni ad hoc compatibili ed armoniche con gli edifici che verranno realizzate e che quindi aumenteranno, non diminuiranno il verde di quell'area. I ricorrenti sottolineano anche che l'area non versa in condizioni di degrado, ma che al contrario il campetto è luogo di aggregazione sociale e di inclusione. Nei prossimi giorni verrà lanciata una campagna di raccolta fondi per coprire le spese del ricorso. Ad oggi sono stati già raccolti 5.000 euro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il nucleo ambientale della Polizia Locale di Trieste ha denunciato 4 persone a piede libero per il reato di gestione illecita di rifiuti. Il gruppo svolgeva l'attività di sgombero di appartamenti e cantine e, con un camioncino riempito fino all'inverosimile, trasportava legno, ferro, frigoriferi, televisori e molto altro fino al centro di raccolta comunale di Muggia, dove il materiale veniva accolto con la complicità di alcuni addetti. L'autocarro non era iscritto alla albo dei gestori ambientali e i rifiuti avrebbero dovuto essere trasferiti e smaltiti presso una ditta autorizzata in un apposito centro, un servizio questo a pagamento e che invece in questo caso avveniva a spese dei cittadini muggesani. L'operazione è stata coordinata dal sostituto procuratore Federico Frezza. Gli indagati sono stati bloccati all'interno del centro di raccolta di Muggia, posto sotto sequestro preventivo l'autocarro utilizzato. Siamo ora allo sport, partiamo con il calcio e torniamo sul pareggio dell'Udinese ieri sul campo del Monza, un 1-1 che lascia i friulani di Mister Cioffi al terzultimo posto. Tutti uniti per un solo obiettivo, la salvezza, è il messaggio che arriva dallo stadio Brianteo, la casa del Monza. L'Udinese conquista un pareggio, il settimo, sapendo che dovrà lottare ogni minuto della sua stagione per raggiungere un traguardo difficile. I numeri non sono dalla parte dei friulani, considerando le precedenti 15 stagioni di Serie A, 8 delle 9 squadre che non hanno ottenuto nemmeno un successo nelle prime 10 gare di campionato sono poi retrocesse a fine torneo, l'eccezione, il Crotone targato Nicola. La squadra di Cioffi contro il Monza ha messo in mostra ancora una volta la difficoltà cronica nell'andare a segno. Ad oggi solo il 4% delle conclusioni dei friulani si trasforma in rete. L'Udinese nei minuti finali ha retto però l'urto in difesa, quando Silvestri ha detto no a Ciurria e a Valentin Carboni. La strada è in salita, a cominciare dalle prossime 3 gare, con il Milan in trasferta, Atalanta in casa e Roma all'Olimpico. Ma Cioffi ci crede, ha detto di aver scelto il Friuli invece di una proposta all'estero, perché l'Udinese era una squadra da prendere. Ma non lo dico con presunzione e arroganza, perché io so che potenziale ha la mia squadra e so anche i limiti della mia squadra, l'allenatore. Ma io ti dico, noi si può andare a far punti a tutte le parti. Poi è normale, qualche volta ci riesci e qualche volta non ci riesci, ma se te parti e vai in un campo difficile sapendo che non fai punti, non li fai sicuro. Se pensi che puoi vincere la partita, forse un punto, forse qualche volta con un colpo di Spirito Santo magari la vai anche a vincere. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al basket. In serie A2 ieri sera è arrivata la terza sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Trieste, che ha perso a Verona per 81-69. Crisi aperta in casa biancorossa, ma l'allenatore Christian non sembra per il momento in discussione. Mercoledì il prossimo impegno, di nuovo in trasferta sul campo di Piacenza. Udine invece ha vinto agevolmente a 100 per 80-93 e mercoledì riposerà per la concomitanza della partita interna dell'Udinese. Ma sentiamo il commento dell'allenatore di APU, Adriano Vertemati, dopo la vittoria di ieri. Siamo molto molto contenti della partita che abbiamo giocato. Voglio fare veramente complimenti ai miei giocatori perché hanno con grande personalità affrontato questa partita. Credo che l'abbiamo vinta, sarebbe facile dire nel terzo quarto, ma credo che nei secondi 5 minuti del secondo quarto, quando abbiamo trovato il modo di attaccarli in maniera efficace, e lì abbiamo preso veramente fiducia. Poi è chiaro che nel terzo quarto c'è stata una prestazione difensiva e offensiva, perché abbiamo anche segnato 25 punti di primissimo livello. Questa è una squadra che difende se ce lo permettono. Onestamente oggi ci sono stati dei momenti in cui non ce l'hanno neanche permesso perché era sempre fallo, però è una squadra che è in grado di difendere molto bene e l'ha fatto vedere nel terzo quarto. Non è facile giocare qui, non era facile giocare contro Cento in questo specifico momento in cui tutti hanno dato qualcosa in più, il pubblico è stato eccezionale, li ha sospinti fino alla fine, Sabin ha fatto un partitone, insomma erano determinati a vincere la partita, quindi ancora maggior merito alla mia squadra. Gli spettacoli, uno sguardo al programma odierno del Trieste Science Plus Fiction Festival. Tra i film in cartellone, alle 16.30 al Teatro Miela sarà proiettato in anteprima italiana Low Tech di Adrien Bellai, che racconta un approccio ecologico consistente nel progettare o diffondere tecniche e conoscenze utili, sostenibili e accessibili a tutti. Alle 18.30, sempre al Miela, il documentario Solaris Mon Amour, ispirato all'omonimo libro del polacco Stanislaw Lem, mentre alle 20, al Politeama Rossetti, La guerra del Tiburtino III, della regista Luna Gualano. Sarà Andrea Pennacchi, autore di teatro e cinema reso celebre dal personaggio del Poiana, ad aprire stasera la stagione teatrale 2023-2024 del circuito ERT. Lo spettacolo Poiana e i suoi fratelli andrà in scena alle 20.45 all'auditorium del Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Sul palco Pennacchi sarà accompagnato da due musicisti, Giorgio Gobbo e Gianluca Segato. Lo spettacolo tornerà nel circuito ERT a fine stagione, il 29 aprile a Maniago. E per il cartellone dei lunedì dello Schmidl, il primo appuntamento della stagione con fuori scena, ciclo di guide all'ascolto delle opere in scena al Teatro Verdi di Trieste. Sarà dedicato a Manon Lescaut di Giacomo Puccini, opera di apertura della stagione lirica. L'incontro alle 17.30 a Palazzo Gopcevic a Trieste. Sono le 12.51 minuti e 32 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Roberto Cavallari e da Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Per il momento è tutto. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili Facebook, Twitter e Telegram della redazione e sul sito all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg. Grazie della cortese attenzione. Da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.